Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Giovedì 18 febbraio, buongiorno di nuovo a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere, siete su Liberi Dentro, siete con me che sono Caterina Bombarda alla conduzione e con Ignazio De Francesco da Montesole. Buongiorno Ignazio. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti e a tutte. E Micaela Casalboni del Teatro dell'Argine. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Apriamo sempre con le nostre notizie di cronaca bianca e oggi vi racconto di questo progetto Per Aspera ad Astra, il cui obiettivo è la riqualificazione attraverso la cultura e la bellezza. Leggo la notizia da Ital Press e infatti insieme a un gruppo di fondazioni l'obiettivo di Aspera ad Astra è quello di riqualificare le carceri attraverso la cultura e la bellezza. Questo è un progetto bellissimo che coinvolge 12 carceri e circa 250 detenuti che partecipano a percorsi di formazione professionali nei mestieri del teatro, ma non solo, ci sono quindi anche attori, drammaturghi, anche scenografi, costumisti, truccatori, insomma c'è tutto. E la direzione di questo giornale ne ha parlato con Giorgio Righetti, che è il direttore generale di ACRI, che ricordo è Associazioni di Fondazione e Casse di Risparmio, che deve essere veramente una persona illuminata, poi ce lo dirai anche tu Micaela, perché lui dice che il teatro è stato utilizzato come strumento per perseguire questo obiettivo rieducativo, perché lui dice che promuovere l'arte nella sua complessità, questo è una straordinaria forza di umanità anche, non è solo uno strumento ma un fine. E poi la cosa che mi piace di più, dice, mettendo al centro l'arte si dà dignità e ancora maggior valore alle attività, difficili ma impegnative, che i detenuti praticano partecipando alle attività teatrali da noi promosse. Poi conclude, l'arte che è un diritto anche per coloro che si trovano in condizioni di privazione della libertà personale. Questa è una cosa veramente bellissima. Io ricordo che questo progetto coinvolge, appunto ve l'ho detto, 250 detenuti in 12 istituti penitenziari dal nord a sud Italia, tra cui c'è Bologna, Cagliari, Genova, La Spezia, Milano, Padova, Palermo, Perugia, Saluzzo, Torino, Vigevano e Volterra. Bene. Ignazio, do la parola a te. Ecco, e continuiamo sul tema della collaborazione. Sì. E vorrei agganciarmi con questa cosa anche per spiegare. Tu dici ogni giorno cronaca bianca. Uno dice, ma che cosa vuol dire cronaca bianca? E la cronaca che... c'è la cronaca nera, sappiamo benissimo il delitto, ma cronaca bianca in un senso più ampio vuol dire dare spazio a quelle notizie che di solito non ci arrivano. Per esempio, oggi abbiamo Libia Herald, un giornale libico, che ci parla di una cosa di cui di solito noi non sappiamo nulla. Pensiamo alla Libia, pensiamo alla guerra civile, pensiamo ai pozzi di petrolio, al gas, ai rifugiati, ma in realtà è una vita che va avanti. In questa vita che va avanti c'è una notizia del 29 gennaio in cui si dice che è terminato un percorso di formazione, di training per amministratori pubblici libici, cioè i comuni della Libia. E chi è che l'ha tenuto questo corso? Una trentina di persone tra sindaci, funzionari, l'ha tenuto l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, ed era un corso che doveva fare aiutare questi colleghi della Libia a aumentare le loro capacità di dialogo con il pubblico, anche di collaborazione tra di loro. È una cosa piccolissima, però è un segno di un ponte. A noi piacciono molto i ponti tra le sponde del Mediterraneo. Noi italiani abbiamo una storia brutta in Libia. Ecco, io quando ero a Damasco, all'università, incontravo un ragazzo, sei italiano, al-Shahad Omar al-Mukhtar, mi chiedevano sempre se avevo visto Il leone del deserto, quello famoso film sul terribile colonialismo italiano. Io ogni volta dovevo dire sì, l'ho visto e mi spiace molto, mi vergogno di quello che noi italiani abbiamo fatto in Libia. Però la storia non finisce lì. E quindi c'è la possibilità di collaborazione tra comuni e chissà magari anche col comune di Bologna. E poi anche l'altra notizia bella è che inizia un percorso di insegnamento della lingua italiana in Libia nelle scuole superiori della Libia. Ecco le notizie di cronaca bianca dalla costa della Libia. Alla fine delle quali c'è sempre un pezzo arabo, della cultura araba che tu lanci, però questa volta stiamo parlando, trattando autrici e cantautori libanesi. Quindi abbiamo stavolta abbiamo Marwan Khoury, che è un grande compositore, con Carole Samaha, che fanno un testo, sono di solito cose tutte d'amore, però il titolo è religioso, Yarab, Yarab, o Signore. بنتي بعدك حلو وصرتي أحلى شو هالصدفي ما في أحلى وقلبي شوفك يا ما استحلى قولي لي كيفك انت انت بعدك انت ما بتتغير محير لي قلبي ومحير ماشي نتذكر عدروب وين رجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى هاك الأحلام يا ليل البعد ونطرنا عن فارق الأيام ماشي نتذكر عدروب وين رجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى هاك الأحلام يا ليل البعد ونطرنا عن فارق E sulle note musicali ritorniamo su Liberi Dentro, bentornati, e siamo sempre con il nostro Ignazio De Francesco e la nostra Micaela Casalboni del Teatro dell'Argine. E con te, Ignazio, stiamo sempre continuando col nostro Galateo Arabo Internazionale, che ci interessa tanto perché ci dà tanti consigli proprio di vita. Stiamo parlando della lotta contro la noia, ci hai dato tanti suggerimenti, evitare persone cronicamente annoiate, cercare di parlarne, cercare di aiutare gli altri che sicuramente sanno come non farci sentire annoiati perché ci danno sempre dei compiti da fare. E oggi di cosa parliamo? Allora, oggi è un altro strumento per battere la noia è quello di organizzarsi. Sentite, una cosa molto semplice. Allora, taqsim al-amal al-mutarakima idha kanat hiya al-sabab fi shu'ur bil-malal. Allora, dividere, ripartire le cose da fare che si accumulano, che sia mutarakima, diventano una montagna di cose, se questo può essere il motivo per cui uno prova la noia. Sembra una cosa un po' strana, ma proviamo a pensarci. Immaginiamo di entrare nella nostra stanza, c'è un sacco di roba sul letto, cosa che è stata messa a stendere, e poi lì c'è da piegare, poi ci sono le cose da fare, da mangiare, poi sono arrivate delle lettere, ci sono delle cose. Uno a un certo punto dice, uff, che barba, queste cose lì. Allora si fa un buchetto, trovo un buchetto in cui mettersi sul letto, tirar su le gambe contro il muro, eccetera, eccetera, mettere la testa tra le gambe e non vedere più il caos che è intorno a sé. Questo capita a noi. Allora lui dice, comincia a prendere le cose un pezzetto per un pezzetto. Allora prima piega le cose, poi c'è lo studio, si è tornato su, c'è da fare lo studio, poi devi fare da mangiare. Quindi organizzarsi la vita, organizzarsi gli impegni, aiuta a battere la noia. E questo così, visto che abbiamo un'attrice, mi viene da pensare, io certe volte ho visitato anche il mio amico attore Alessandro Berti e anche altri attori, quando si va nel loro camerino alle prove, così, si ha una sensazione un po' di caos, c'è uno che va di qua, uno che va di là, uno che stira un abito, uno che prende i fogli, e mi sono detto, ma gli attori riescono poi a organizzarsi per andare in scena in modo ordinato? Forse che il teatro è anche una organizzazione dei propri pensieri? Wow! Allora, diciamo che ci sono attori e attori. Il caos è fondamentalmente nutrimento per la creatività, allo stesso modo, così come combatte la noia, io trovo che organizzare, o meglio mettere ordine, che è un'altra cosa ancora, sia un bel modo per gestire anche l'ansia. Cioè io quando sono io raramente sono annoiata, ma quando sono un po' così agitata, l'idea di mettere a posto com'è, come non è, mi tranquillizza. Il teatro non ha bisogno, non è questione di ordine o di disordine. L'importante è avere, come dire, una mente chiara e un'energia pronta all'ascolto dell'altro e a darsi fondamentalmente. Quindi questo è. E tra l'altro Caterina in apertura parlava di questo progetto per Aspera ad Astra che raccoglie dentro anche noi, cioè il lavoro che noi facciamo alla Dozza è esattamente grazie a questo progetto per Aspera ad Astra, che è un progetto visionario, e questo è la citazione di Righetti che tu facevi prima, è veramente una citazione da persona visionaria. Nelle condizioni in cui siamo adesso, cioè con le attività, cioè con l'ingresso dentro la casa circondariale sospeso, qualcun altro avrebbe potuto dire sospendiamo anche il progetto. Invece no. Fondazione Acri, con Righetti in testa, ha detto no, è proprio adesso che il ruolo sociale che noi abbiamo come fondazioni deve rivelarsi. E quello che perdiamo in controllo lo guadagniamo in fiducia. Questa frase ce l'ho scolpita, la disse in una riunione in cui eravamo tutti da tutta Italia, sempre con queste finestrelle di Zoom, e quindi ci hanno sollecitato a trasformare il laboratorio in presenza in altre azioni, da qui anche le lezioni che adesso, grazie a voi, arrivano anche dentro, meglio di come sarebbero arrivate con le sole nostre forze, lo scambio epistolare. Stiamo progettando un documentario dove speriamo alla fine di poter avere anche le voci delle persone dentro con le quali lavoriamo. La formazione, perché per Aspera ad Astra comporta anche tutta una parte di formazione professionale nei mestieri del teatro, tutti i mestieri che citavi anche, credo, nella prima puntata della settimana. E quindi, ecco, piano piano col nostro scenografo Nicola Bruschi, con i compagni di cui vi parlavo l'altro giorno, Paolo, Mattia e Giacomo, che sono attori e registi a loro volta e insegnanti, ecco, questa trasformazione, questo mettere ordine. Mettere insieme 12 carceri, 12 compagnie, 12 fondazioni. Per noi è la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che già ha fatto tanto altro anche per la casa circondariale, oltre che per noi come teatro. Metterle insieme, cioè, è anche la forza della collaborazione. Ultimissima cosa, la rubo. Dentro Liberi Dentro c'è CPA, FOMAL, Cantieri Meticci, che sono pezzi della nostra storia e per il fatto che una compagnia di teatro che non fa solo la compagnia di teatro, ma che si va sui confini, ecco, entra in contatto anche con realtà che fanno apparentemente tutt'altro, e in verità facciamo tutti la stessa cosa. Ecco, questo lo trovo anche molto interessante. Grazie che ci hai ricordato tutti questi intrecci, è molto, molto utile anche per chi guarderà oggi pomeriggio, stasera alle 17 i nostri laboratori su Teletricolore, canale 636, mi raccomando. Adesso un brano lo lancio io, Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda. E noi ci rivediamo sempre qui domani. Di verde ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana. Il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo. S'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero. S'ubriaca di stelle. E rieccoci su Liberi Dentro, siamo in compagnia di Marcello Mattè, cappellano del carcere della Dozza. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E oggi abbiamo a commento del Vangelo di domenica 21 febbraio un Vangelo veramente corto, proprio quattro versetti, cortissimo e densissimo anche. E ricordo, è il Vangelo di Marco, siamo al capitolo 1, versetti 12-15. La scorsa volta abbiamo parlato della purificazione del lebbroso e questa volta invece parliamo, in una giornata importante in cui celebriamo l'inizio della Quaresima, parliamo invece della tentazione, della prova, ecco, di Gesù nel deserto. Quindi il primo spunto alla domanda che ti faccio io, ma forse anche da parte di tutti quelli che ci ascoltano, è se ha un significato particolare il numero 40 dei giorni che Gesù trascorre nel deserto. Il numero 40 ha più di un significato. In questo contesto, anzitutto, credo che voglia alludere al periodo di tentazione che ha subito il popolo nel deserto, uscendo dall'Egitto nel periodo di 40 anni che trascorse nel deserto per approdare alla terra promessa. Periodo in cui il popolo è stato messo alla prova, una lunga prova quella del deserto, potete immaginare, ma anche un tempo nel quale dice Dio, si lamenta, e mi misero alla prova i vostri padri, misero alla prova Dio, lo tentarono in diversi modi per vedere se era fedele alla sua promessa, perché dubitavano durante il cammino nel deserto che Dio li avesse abbandonati. Quindi è un periodo di prova che Gesù attraversa, ripetendo il percorso che il popolo ha compiuto nel deserto verso la propria liberazione. In secondo luogo, questo numero 40 allude a un tempo comunque limitato. Il numero 4, a differenza del numero 7 che dice infinito, dice qualcosa di limitato. Quindi 40 è un tempo di prova, sì, ma è un tempo limitato. Che Non prima o si... poi finisce. Prima o poi finisce. Questa è Sì. la promessa. Quindi abbiate la fiducia di attraversare il momento della prova, perché Dio vi mette alla prova, ma per potervi liberare, per potervi condurre a un approdo di terra promessa, di libertà maggiore. Ecco, esatto, in questo tempo limitato, adesso leggo il versetto, siccome è brevissimo, Gesù stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano, cita il Vangelo di Marco. Quindi, che cosa vogliono richiamare le bestie selvatiche e gli angeli? Guarda, io credo che ci siano almeno due livelli di interpretazione. C'è chi preferisce vedere in questa immagine delle bestie selvatiche un richiamo alla condizione dell'Eden, del paradiso terrestre. E quindi Gesù, che avrebbe trascorso un periodo di prova di 40 anni, quindi avrebbe ripercorso il cammino dell'Esodo, è anche quel Gesù che avrebbe ripercorso il cammino dell'umanità dai tempi di Adamo, dai tempi della creazione, con l'uscita dal paradiso terrestre, laddove aveva un rapporto di benevolo con le bestie selvatiche. C'era una condizione primitiva, che era una condizione di beatitudine. Gli angeli servivano l'uomo appena creato, e con le bestie selvatiche c'era un rapporto, diciamo così, gradevole, paradisiaco. E quindi sarebbe l'immagine di un Gesù che ripercorre tutto il cammino dell'umanità fin dalla Genesi, e in particolare percorre il cammino dell'Esodo, che è il cammino del popolo eletto di Dio. Ma c'è anche invece una lettura più drammatica di questa immagine delle bestie selvatiche. E perché le bestie selvatiche rappresenterebbero quella condizione nella quale l'uomo è immerso nella legge della giungla, diciamo così, dove prevale la legge del più forte. Si de deve lottare con le bestie selvatiche, in questo caso Gesù. Cioè deve affrontare quei poteri che si manifestano con tutta la loro forza, la loro aggressività, e in particolare la tentazione del potere. Quindi il confronto con le bestie selvatiche è un modo di descrivere la tentazione, essere tentati dalla legge del più forte, di imporsi con la forza. Invece gli angeli di Dio lo servivano. L'atteggiamento angelico è quello del servizio. Quindi la contrapposizione che Gesù vive sulla propria carne e in rapporto alla propria missione è proprio quella di scegliere fra la legge del più forte o la legge del servizio. Sappiamo tutti quale sarà la scelta che Gesù fa. E adesso ti tocca lanciare un brano musicale. Guarda, entrando nella Quaresima con questa prima domenica, io volevo proporvi Miserere, che è un brano di Zucchero, cantato in questa versione che vi propongo io, insieme a Luciano Pavarotti. Ascoltiamolo. che mistero è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore, l'anno 80.000, un menzognero. Ma dove sono? Io sono il santo che ti ha tradito quando eri solo e vivo altrove e osservo il mondo al cielo. E rieccoci sulle note di Zucchero e Pavarotti, il brano Miserere che hai scelto tu, giustamente, molto bello. Ritorniamo al nostro Vangelo di Marco e Marco sottolinea che la predicazione di Gesù comincia dopo che il Battista, Giovanni il Battista, fu arrestato. Per quale motivo? Inizia dopo questo evento anche un po' tragico, diciamo, perché poi sappiamo la fine del Battista non è, diciamo, purtroppo non è positiva. È tragica, sì. Da una parte credo che ci sia l'indicazione molto semplice di un passaggio di testimone, cioè è cessata la predicazione dell'annunciatore, del precursore, è arrivato finalmente il Messia, non più soltanto una promessa, un annuncio, ma adesso prende la parola il mandato da Dio, il consacrato da Dio, il Messia, il Salvatore promesso. Quindi ci sia un passaggio di testimone. Dall'altra parte però ci può essere anche un significato ulteriore che non dispiace a Marco nel suo Vangelo, ed è quello di sottolineare che il potere di Erode, il potere in genere, ha cercato di soffocare la voce di Giovanni Battista, voleva metterla a tacere. Il potere vuol mettere a tacere le voci che profetizzano la libertà dell'uomo. E però questo tentativo risulta patetico agli occhi dell'Evangelista, perché per una voce che viene spenta, un'altra voce si prende la parola e grida ancora più forte, griderà il regno di Dio è vicino. Quindi avete tentato invano di allontanare il regno di Dio, la vicinanza di Dio, ma questa vicinanza trova una voce ancora più dirompente nell'annuncio di Gesù. E l'annuncio di Gesù sarà proprio questo, quel regno di Dio che forse ancora Giovanni Battista aveva annunciato come una minaccia, invece in Gesù si presenterà come una beatitudine. Beati voi perché a Dio vi ha rivolto la sua parola, il suo regno si fa vicino a voi. Marcello, siamo nell'inizio di un periodo molto importante, come ho detto all'inizio, che è la Quaresima. E è un periodo valido per tutti i fedeli cristiani in cui, diciamo, il monito è quello di purificarci. Ci puoi dare un consiglio per iniziare questo cammino di purificazione? Credo che sia importante, non solo a livello religioso, ma proprio a livello umano, cogliere queste occasioni per ritrovare l'essenziale, per andare a ciò che è essenziale. Il deserto un po' ci spinge attraverso questa immagine alla ricerca dell'essenzialità. E forse anche questo tempo di pandemia che ci costringe a tante cose a cui non eravamo pronti, e le viviamo spesso con un malessere interiore, però proviamo anche ad accettarlo e ad approfittare di questo periodo per domandarci e cercare che cosa è davvero essenziale, importante, necessario nella nostra vita, e accettare anche di liberarci di tutto ciò che può essere superfluo. Grazie Marcello, ci rivediamo il prossimo giovedì sempre con te, e ora un brano lo lancio io e si intitola Tentazioni ed è solo strumentale ed è di Neffa. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, saluti. Eccovi, giungiamo anche oggi ai saluti di fine puntata e ci salutiamo sulle note di questo bel brano musicale di Neffa, Tentazioni, ma l'appuntamento è sempre oggi pomeriggio alle 17 al canale 636 di Teletricolore con Diritti al Punto, i ragazzi del Poggeschi e il giudice emerito Maurizio Millo. Potete scriverci all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, oppure alla nostra posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. E noi ci rivediamo domani, sempre qui a Liberi Dentro. Buona giornata!